notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Immigrazione, Renzi all'attacco alla vigilia del vertice europeo. C'è un limite allo sciacallaggio, dice. Estirperemo la corruzione di chi ruba con le emergenze. Terrorismo, la Digos afferma un sospetto foreign fighter a Ravenna. Da Parigi manette un uomo con un arsenale di armi da guerra, voleva colpire le chiese. Italicum, la legge elettorale fra 5 giorni approda in aula tra le tensioni. Letta a Radio 24, il racconto del presidente del consiglio è metadone. Salvini contestato a Livorno con lanci di uova e pomodori, sfigati, dice, poi torna all'attacco di Renzi, è un becchino incapace. Un altro viadotto pericolante sulla Palermo-Catania, lo conferma il genio civile della regione, ma l'ANAS smentisce, 5 stelle all'attacco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito internet di Radio 24, www.radio24.it, e poi, se volete, durante la diretta, il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura parliamo ancora di immigrazione, perché alla vigilia del vertice europeo il Presidente del Consiglio è intervenuto in Parlamento. Sentiamo. Che l'Europa faccia l'Europa, in senso politico, che non sia solo un club di tecnici attenti al budget. Questo ha detto prima alla Camera, poi al Senato, il Premier Matteo Renzi riguardo alle stragi di migranti nel Mediterraneo, alla vigilia del Consiglio europeo straordinario chiesto proprio dall'Italia e che si terrà domani a Bruxelles. Renzi non ha precisato che tipo di misure chiederà all'Europa, se non che la proposta dell'Italia riguarderà anche le procedure di asilo. Il Premier chiederà che siano gestite da un team europeo, ma sentiamo un passo del suo discorso alla Camera. Questo tipo di priorità è quella che noi chiediamo a un'Unione Europea che voglia essere qualcosa di diverso da un'assemblea di paesi membri di un club economico. Io sono molto ottimista sul fatto che l'Unione Europea possa finalmente cambiare passo. Torniamo umani, ha detto il Premier, che ha fatto poi un appello all'unità di tutte le forze politiche. Non dobbiamo dividerci, ma ha poi stigmatizzato quello che ha chiamato lo sciacallaggio delle opposizioni. Nel dibattito parlamentare seguito all'informativa, molto duro il Movimento 5 Stelle con Alessandro Di Battista. Si occupi di quei 9 milioni di italiani che soffrono e vedrà che diminuirà anche lo sciacallaggio e diminuirà il razzismo e la xenofobia in questo paese, Presidente Renzi. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, replica invece su Twitter chiamando il Premier becchino incapace, recordman di morti e sbarchi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di immigrazione torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione, parleremo proprio delle soluzioni alle quali sta pensando l'Europa per cercare di capire quanto siano efficaci e poi del problema dell'accoglienza. Andremo da nord a Milano, dove si sta pensando di allestire una tendopoli per i profughi, a Reggio Calabria, dove il sindaco Falco Matà ha denunciato forti problemi proprio dal lato dell'accoglienza. Torneremo a parlare tra poco anche di Salvini, che è stato contestato, come sentivate dai titoli. Intanto parliamo dei 2 arresti, uno a Ravenna e uno a Parigi, di presunti terroristi islamici. Il servizio. L'ombra dell'ISIS si spinge su Ravenna. Nella città romagnola, la Digos ha bloccato oggi uno straniero fortemente indiziato di essere un foreign fighter, anche se ancora non è chiaro se stesse per arruolarsi nelle milizie ISIS o se avesse avuto già un ruolo attivo nei conflitti in corso in Africa e Medio Oriente. Il fermato è un tunisino di 27 anni, senza fissa dimora. Si chiama Luati Nusair. L'uomo era controllato da tempo. L'indagine, da parte della Digos di Bologna e di Ravenna, era partita a febbraio. Sempre oggi la notizia dell'arresto, avvenuto però domenica a Parigi, di un giovane islamico fondamentalista trovato in possesso di un arsenale di armi da guerra. Il 23enne, studente di informatica, stava pianificando, a quanto si apprende, attentati contro una o due chiese. Intanto la Turchia ha lanciato un appello per ottenere ulteriore aiuto per fermare il flusso di foreign fighter che vanno ad ingrossare le file dello Stato islamico in Siria e Iraq. Ankara ha anche rivelato di aver messo 12.800 nomi nella lista nera a cui non è permesso l'ingresso nel paese. Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, che ha incontrato a Washington il segretario di Stato USA John Kerry, ha sottolineato che questo è un momento critico per la regione. Ankara ha confini condivisi con Siria, Iraq e Iran, crocevia della crisi regionale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sulla questione del terrorismo e delle infiltrazioni terroristiche, dice intanto proprio il leader della Lega, Matteo Salvini, non bisogna parlare alla pancia del paese, stimolare reazioni e istinti, ma piuttosto controllare, prevenire e reprimere. Questa mattina Salvini è stato contestato in Toscana, cartelli contro di lui innanzitutto nell'area ex CNR di Scandicci, alle porte di Firenze. Dice: non sono io il provocatore. Che c'è gente che si alza alle 6 della mattina per lavorare e pagare le tasse e c'è gente che occupa, pretende, fa, disfa, ruba. Non è normale. In Svizzera io non dovrei andare a visitare questi luoghi perché non ci sono questi luoghi in Svizzera. Quindi la provocazione è delle istituzioni che permettono vergogna di questo tipo. Questa mattina a Livorno c'erano state contestazioni decisamente più pesanti. Uova e pomodori in direzione di Matteo Salvini durante il suo comizio a Livorno per le elezioni regionali. Il leader della Lega Nord non è stato colpito, ma la replica è stata piuttosto arrabbiata, come nei precedenti casi simili. Sfigati, così ha definito i contestatori. Ringrazio la Livorno Democratica, ha detto, diamo una lezione di democrazia a questi sfigati. I contestatori si erano posizionati di fronte al banchetto allestito dalla Lega. Nessun contatto dunque, per fortuna, con i simpatizzanti del Carroccio presenti in piazza. Solo la rabbia del leader. Mi impegno a tornare a Livorno 1, 2, 3, 4 volte, ha continuato Salvini, fino a quando non sarà possibile anche qui manifestare liberamente. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo dunque di politica. L'attenzione si concentra e continua a concentrarsi in queste ore sulla legge elettorale, sugli scontri interni al Partito Democratico. Il punto con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, atteso il mandato del relatore sull'Italicum, mentre le opposizioni continuano l'Aventino, dopo i pareri alla legge elettorale da parte delle commissioni esterne a quella affari costituzionali, in commissione affari costituzionali si concluderanno i lavori e si darà il via libera all'approdo in aula del disegno di legge sulla legge elettorale. Riguarda l'Aventino, interviene il presidente della commissione Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, che non lo condivide, anche se dice lo spettacolo di vedere la maggioranza che si approva da sola la legge elettorale non è stato edificante. Sempre da parte di Forza Italia Giovanni Toti dice che è a rischio l'equilibrio democratico e chiede il premio alla coalizione, non alla lista. Quest'oggi Silvio Berlusconi incontrerà i parlamentari azzurri. Nel PD invece c'è stata rinviata l'assemblea di area riformista, quella, per farci capire, del capogruppo dimissionario Roberto Speranza sulla legge elettorale, che si doveva svolgere questa sera, ma invece sarà più a ridosso delle votazioni in aula alla Camera. Nel frattempo ovviamente la minoranza Dem non partecipa ai lavori in commissione dopo la sostituzione dei 10 deputati. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo punto di giornata. Intanto Enrico Letta torna all'attacco di Matteo Renzi, intervenuto a Mix24 quando Giovanni Minogli gli ha chiesto se è una fase nella quale la percezione delle cose vale più del reale. Ha risposto così, per parlare poi anche di Italicum. Cerco di dare un contributo perché non sia un tempo in cui la percezione conta più della realtà. Ma aiuta a stare meglio? No, è metadone. Ma se sarà in Parlamento voterà l'Italicum oppure no? Bisogna vedere come sarà l'Italicum. Beh, ma questo Italicum, mi pare che sia questo l'Italicum. Lo vedremo. Non, lei pensa che non sarà questo, si cambierà? Eh? Bah, insomma, io penso che una legge elettorale approvata a maggioranza stretta, in Italia ce n'è stata una sola, è stato il Porcellum, è stato un disastro. Okay. Le altre, Mattarellum e quelle della Prima Repubblica, sono state approvate a maggioranza larga, perché, come ha detto Renzi stesso, le regole del gioco si fanno tutti insieme. Quindi se fosse approvata così sarebbe un disastro anche questa? Eh? C'è bisogno di una maggioranza larga. Sono dati economici oggi che arrivano dall'Istat positivi per quanto riguarda il fatturato delle imprese. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. È così, i timidi segnali di ripresa dell'economia evidenziati nelle ultime settimane da diversi centri studi iniziano poco alla volta ad essere presenti anche nelle elaborazioni dell'Istat. Parliamo allora di fatturato ed ordinativi. Il primo torna a crescere a febbraio dello 0,4% rispetto a gennaio, ma è ancora indietro rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un meno 0,9%. L'aumento congiunturale relativo all'industria premia sia il mercato interno più 0,2% che quello estero più 0,6%, che cresce cresce anche su base annua più 0,8. Dato ancora migliore quello relativo agli ordini, con un più 0,8% mese su mese, più 2% rispetto al 2014. Nello specifico, i settori che risultano in salute sono quelli relativi alla fabbricazione di mezzi di trasporto e di apparecchiature elettriche, male quelli relativi a prodotti petroliferi e più in generale legati ad attività estrattive. Altro fronte quello dei consumi, sempre secondo l'Istat, le vendite al dettaglio diminuiscono a febbraio rispetto a gennaio, ma crescono dello 0,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Da segnalare l'ottimismo del ministro dell'economia Padoan, che ieri sera in sede di commissione parlamentare ha detto: l'economia italiana è uscita dalla recessione, la crescita del PIL sarà dello 0,7% quest'anno e poi dell'1,4% e dell'1,5% nel biennio a seguire. Si tratta di previsioni prudenziali, ha ricordato il ministro, ma i primi dati sono incoraggianti. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Dovrebbe arrivare oggi il via libera definitivo al divorzio breve. Ma cosa contiene questo provvedimento? Sentiamo. 6 mesi e non più 3 anni per dirsi addio. Questa è la principale novità della riforma, che regala tempi più brevi a chi vuole mettere fine al proprio matrimonio. 6 mesi dalla separazione al divorzio, al massimo 1 anno se si decide di ricorrere al giudice. In particolare, il termine per calcolare la durata della separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione. Tutto questo indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Una vera svolta per l'Italia, visto che si va a modificare una norma di oltre 40 anni fa, tempi accorciati anche per la comunione dei beni, che potrà essere sciolta nello stesso momento in cui si sottoscrive la separazione consensuale. L'applicazione del divorzio breve sarà immediata, e cioè il nuovo istituto sarà operativo anche per i procedimenti in corso. Dal provvedimento, durante la discussione al Senato, è stata invece stralciata la norma che prevedeva il divorzio immediato, cioè senza separazione, abolendo i 2 gradi di giudizio, una norma che avrebbe rallentato il percorso di approvazione, visto che sul tema si sono registrate posizioni politiche contrastanti. Per arrivare al testo attuale, però, ci sono voluti oltre 10 anni. Il primo disegno di legge sul divorzio breve risale infatti al 2003. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I carabinieri del NAS di Palermo hanno eseguito i controlli in alcune macellerie delle province del capoluogo siciliano di Agrigento e Trapani e hanno scoperto che mettevano in vendita carni ormai vecchie, presentandole come fresche. Denunciati 23 macellai, oltre al direttore commerciale e al legale responsabile di un deposito di carni all'ingrosso di Palermo. Come funzionava, lo racconta il comandante del nucleo antisofisticazione di Palermo, il capitano Giovanni Trifirò, al microfono di Adriana Fracchia. Abbiamo individuato 23 attività di macelleria che vendevano carni con l'aggiunta di sostanze non consentite, nello specifico nitrati e solfiti, i quali sono sostanze additivi utilizzati come conservanti, però nelle carni macellate fresche sono vietate. Sono vietate perché danno un colorito rosso alla carne, che però nasconde lo stato di alterazione della stessa. Poi, presso un deposito di carni di Palermo, abbiamo sequestrato carne ormai alterata, quasi in stato di decomposizione, 4 tonnellate, che devono essere commercializzate. Nella partita contro il Monaco di questa sera, la Juventus spera naturalmente di agguantare la semifinale di Champions League. Le aspettative nelle parole del capitano Buffon. So benissimo che è una partita molto importante sia per me che per i miei compagni, insomma per tutta la società, perché credo che sia dimostrazione del fatto, se riuscissimo a scavallare questo turno, che la Juve è in grande crescita e metterebbe secondo me un marchio importante anche a livello europeo, per dimostrare, semmai ce ne fosse stato il caso, semmai se qualcuno avesse avuto dei dubbi, che siamo tornati, ecco. Più di 2.800 espositori, rappresentanza di 7.000 marchi, 10 padiglioni, 70.000 visitatori attesi, sono i numeri di Tutto Food 2015. È il salone agroalimentare della Fiera di Milano che aprirà i battenti dal 3 al 6 maggio prossimi, in concomitanza con la prima settimana di apertura di Expo. Si tratta della prima fiera del settore in Italia, la terza più grande d'Europa. Mai come oggi l'agroalimentare italiano ha bisogno di far sistema, sottolinea Paolo Borgio, che è Exhibition Manager di Tutto Food. Da un punto di vista commerciale abbiamo fatto una crescita straordinaria, abbiamo fatto un più 40% rispetto all'edizione scorsa e siamo passati da una prima edizione che aveva 3 padiglioni a oggi che ne hanno addirittura 10. Ottimi anche i presupposti da un punto di vista di visitatori, soprattutto internazionali. Abbiamo praticamente raddoppiato il numero dei buyer internazionali che saranno presenti in manifestazione. Risultati eccellenti che sono una riprova di quanto importante sia l'internazionalizzazione. Tutto Food fin dalla prima edizione ha lavorato su un processo di internazionalizzazione e quanto siano importanti le manifestazioni fieristiche in questo senso. Siamo in un trend vincente per quanto riguarda i prodotti agroalimentari italiani, dobbiamo solo riuscire a fare molto più sistema per avere quella massa critica e quelle dimensioni che ci possano permettere di affrontare questo villaggio globale che è diventato ormai il mondo. L'intervista era di Maria Luisa Pezzali. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo, dedicheremo ancora ampio spazio al tema dell'immigrazione per approfondire soprattutto quanto questa soluzione ipotizzata in Europa e che sarà al centro anche del Consiglio europeo di domani, di affondare, di colpire i barconi prima che partano, possa essere efficace. E poi tutto il fronte dell'accoglienza e i problemi che stanno avendo i comuni ad accogliere questa massa di profughi, traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Immigrazione, Renzi all'attacco alla vigilia del vertice europeo, c'è un limite allo sciacallaggio, dice, estirperemo la corruzione di chi ruba con le emergenze. Interviene anche il presidente Mattarella che dice l'Europa fermi il traffico di uomini. Terrorismo, la Digos ha arrestato un sospetto foreign fighter a Ravenna. A Parigi manette un uomo con un arsenale di armi da guerra, a quanto pare voleva colpire delle chiese. Italicum, la legge elettorale fra 5 giorni approda in aula tra le tensioni. Letta Radio 24 dice il racconto di Renzi è metadone. L'antitrust europeo ha accusato formalmente Gazprom di abuso di posizione dominante per le sue pratiche commerciali nell'Europa centrale e orientale. Accuse infondate, replica l'azienda. Giampaolo Musumeci, bentornato ai nostri microfoni. Giampaolo, ciao. Buongiorno Simone, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Giampaolo Musumeci è voce estiva, come sapete, di Radio 24 con la sua trasmissione che si occupa un po' di tutti i problemi che ci sono nel pianeta, ma lo chiamiamo spesso in questi casi, in queste situazioni, perché è autore di questo libro, Confessioni di un trafficante di uomini, nel quale ha raccolto anche testimonianze appunto di trafficanti di uomini e ha raccontato, ha cercato di far luce su un sistema che è un sistema criminale in realtà enorme, che spesso bolliamo enormemente, erroneamente come gli scafisti, in realtà sono dei veri e propri boss criminali che guadagnano, come abbiamo visto anche in queste ore e anche dall'inchiesta della procura di Catania, abbiamo visto che ci sono, di Palermo, pardon, guadagnano delle cifre enormi. Giampaolo, io voglio chiederti innanzitutto se ti sembra una soluzione valida quella che si sta ipotizzando in queste ore, ossia quella di colpire i barconi prima della partenza, o è una soluzione tampone, o magari non è nemmeno quello. Mi sembra che siamo sempre che viviamo sull'emergenza, no? L'Italia è maestra, è un paese maestro nel vivere l'emergenza. Intanto era una tragedia assolutamente prevedibile, perché i barconi arrivano da 15 anni. Purtroppo ce ne saranno altre e ci troveremo il giorno dopo a piangere i morti. Non lo so, mi sembra che stiamo curando i sintomi, stiamo tappando un buchino nello scolapasta e poi l'acqua continua a uscire. Mi sembra che manchi proprio una visione da parte dell'Europa sulla risoluzione di un problema. Il problema è complesso ed è generale. Sì, andiamo a affondare i barconi, ma poi se mettiamo il grandangolo, se guardiamo la situazione da lontano, chiudiamo la rotta libica, se ne aprirà un'altra, magari ricominceranno a partire dall'Egitto, si intensificherà la rotta balcanica, quella greca attraverso l'Egeo. Non sono certo sia veramente la soluzione. Credo che il problema fondamentale sia anche perché Giampaolo, su questo ti volevo, queste organizzazioni che sono delle organizzazioni enormi, transnazionali, con disponibilità economiche, insomma, se non paragonabile a quello delle organizzazioni criminali che trafficano in droga, siamo poco lontani. Probabilmente le soluzioni per far passare ancora i migranti le troverà e probabilmente alzeranno anche i prezzi con i migranti. Esattamente, il problema è proprio questo, cioè noi chiudiamo una rotta, se ne aprirà un'altra, sarà più lunga, ci saranno più trafficanti coinvolti, più tappe, quindi più rischi per i migranti e più soldi che noi continuiamo a far guadagnare a queste persone. Però i trafficanti di uomini guadagnano perché soddisfano un bisogno dei richiedenti asilo che l'Europa non è in grado di soddisfare. Infatti io partirei dal lessico: quando viene detto mercanti di morte, io direi piuttosto mercanti di sogni e mercanti di diritto d'asilo. Cioè, quando il siriano deve spendere per salvare la sua vita e la sua famiglia $10,000 e si mette nelle mani di un trafficante, lo fa perché l'Europa non gli dà gli strumenti per esercitare il suo diritto d'asilo. Per cui fa bene la Mogherini quando insiste sui corridoi umanitari. Io e Di Nicola, il mio coautore, insistiamo, abbiamo stilato 15 punti, tra i 15 punti c'è: spuntiamo le armi ai trafficanti, facciamo in modo che i rifugiati non debbano più affidarsi a loro, e così togliamo la pistola fumante dalle mani di queste persone. E lo ripeto, se non vogliamo piangere i morti, preoccupiamoci di questo fiume di denaro che può finanziare tranquillamente, siccome non è tracciabile, altre attività criminali, dalle armi al terrorismo. E questo è un punto, però capisci che dall'altra parte, Giampaolo, ci sono, se vogliamo, delle esigenze politiche, per così dire, no? E di consenso, che impongono che una soluzione così sia molto difficile oggettivamente. Sì, però guarda, a queste obiezioni io farei rispondere uno dei trafficanti che abbiamo intervistato. Ormai si tratta di un incontro che è avvenuto qualche anno fa, ma mi sembra molto molto attuale. Ha detto, riferendosi ai migranti: non li fermerete mai, perché Mosè è stato il primo scafista della storia. Allora, ci sono dei movimenti che non sono arrestabili, li possiamo solo gestire, e da questo dobbiamo partire. La politica può discutere quanto vuole, ma il problema è che non li fermiamo, perché quando scappi da una guerra non li fermi, non è possibile. Possiamo solo evitare le morti ed evitare che il fiume di denaro finisca nelle mani di queste organizzazioni criminali. Cioè, credo che il resto sia un dibattito abbastanza sterile, dobbiamo essere, credo, in questo momento molto molto pragmatici. Grazie, e grazie a Giampaolo Musumeci, autore, ve lo ricordo ancora per chi non l'avesse letto, è un bel libro, molto, molto interessante, Confessioni di un trafficante di uomini, perché per certi aspetti vi aprirà anche un mondo su questo mondo, insomma vi aprirà la visione su questo mondo. Saluto Giuseppe Falcomatà, che è il sindaco di Reggio Calabria. Buongiorno Falcomatà. Buongiorno a voi. E restiamo sul tema dell'immigrazione, perché c'è l'altro fronte, no? Il momento nel quale queste persone arrivano qua, che rappresenta un problema dal lato dell'accoglienza, anche solamente un problema logistico, per così dire. In che situazione siete da voi? Sì, è anche un problema logistico. Noi siamo ormai al collasso, perché questa è un'operazione europea, ma che di fatto di europeo non ha nulla, anzi è gestita all'italiana nel senso negativo del termine, perché è demandato ai comuni al 100% la responsabilità di individuare strutture idonee almeno per la prima accoglienza. Tengo a precisare che Reggio Calabria non ha centri accoglienza, nel senso che una volta avvenuti gli sbarchi, la sede di Reggio Calabria dovrebbe essere utilizzata soltanto per i trattamenti sanitari e poi per fare ripartire i migranti ed essere smistati nei centri di accoglienza all'uopo distribuiti nel nostro paese. Tuttavia dico gestita all'italiana, perché questo non avviene mai, e quindi il nostro comune è alla responsabilità. Quante persone state ospitando in questo momento, Falcomatà? Guardi, adesso piano piano stanno ripartendo quasi tutti, però gli ultimi due sbarchi che ci sono stati hanno portato in città oltre 1500 migranti. La responsabilità demandata soltanto al comune purtroppo ha provocato il fatto che noi abbiamo dovuto individuare una palestra, un campo sportivo e poi chiedere l'ausilio di un'associazione che opera sul territorio, l'associazione Nuova Solidarietà, per smistare le oltre 1500 persone che noi comprendiamo benissimo sfuggono dalla fame, dalla povertà e dalle violenze. Però, e quanti di questi poi, Falcomatà, in questa condizione sfuggono anche ai controlli? Cioè, non, quello immagino, è un altro punto, perché non avendo le strutture idonee, demandando alla Protezione Civile in collaborazione anche con le forze dell'ordine il dover presidiare territori, strutture che non nascono per essere centri di accoglienza, è chiaro che chi ha la volontà di scappare trova il modo per farlo. la struttura dell'associazione Nuova Solidarietà di Salice. Salice è un quartiere nella periferia nord della città sul quale insistono molti terreni e molti campi adibiti a coltivazione. Capisce bene che è molto facile per chi avesse voglia di farlo, magari sfruttando avete una buio, qualche combinare. Devo andare a chiudere, sindaco. Avete una stima di quante persone siano sfuggite al controllo da che è iniziata quest'ultima ondata di sbarchi dalle vostre parti? Dati non ne abbiamo, però insomma nell'ordine delle arrivate, ma siamo sotto il centinaio comunque. Sotto il centinaio, la ringrazio. Grazie a Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria. Su questo tema dell'accoglienza torneremo. Avremmo dovuto avere ospite l'assessore alle politiche sociali e cultura della salute di Milano, Maiorino, ma in questo momento non ci sta rispondendo al telefono. Vogliono allestire una tendopoli di fatto davanti all'ex CIE di Via Corelli. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e tra l'altro parleremo di questo nuovo viadotto, o meglio vecchio viadotto ma pericolante. Questa è la notizia nuova, sempre sulla Palermo-Catania, sulla quale si addensano dunque nuove preoccupazioni. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Immigrazione, Renzi all'attacco alla vigilia del vertice europeo, c'è un limite allo sciacallaggio, estirperemo la corruzione di chi ruba con le emergenze. Terrorismo, la Digos ha fermato un sospetto foreign fighter a Ravenna, a Parigi in manette un uovo con un arsenale di armi da guerra. Salvini contestato a Livorno con lanci di uova e pomodori, sfigati dice, e poi torna all'attacco di Renzi sull'immigrazione, un becchino incapace. Un altro viadotto pericolante sulla Palermo-Catania, lo conferma il genio civile della regione, ne parleremo tra poco, intanto la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora a proposito di immigrazione, sono arrivati molti sms da parte vostra, in parte ha ragione anche Giorgio che ci scrive: se ogni intervento viene scartato prima di provare non si farà mai nulla di concreto, e si riferisce all'affondamento dei barconi prima che partano. È chiaro però, Giorgio, che si tratta di null'altro che un intervento tampone. Ci scrive Luigi: sui migranti si salta sempre un passaggio, la soluzione nei paesi di origine, ma come sa anche quella non è una soluzione facile. Nel frattempo vi posso dare una notizia, la notizia è che il governo di Tripoli, che non è quello riconosciuto internazionalmente, dà la sua disponibilità a cooperare con il governo italiano per lottare contro l'immigrazione clandestina attraverso il Mediterraneo. Vedremo che cosa emergerà anche da questi contatti. Intanto io saluto Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Buongiorno e benvenuto, Cancelleri. Buongiorno a voi, grazie. E anzi, bentornato ai nostri microfoni. L'abbiamo chiamata perché la cosa in realtà è partita da voi, ma a quanto pare è arrivata una conferma dal genio civile della regione. Non c'è solamente il viadotto, quello crollato sotto il colpo di una frana e che sarà completamente da ricostruire sulla Palermo-Catania, ma c'è un altro viadotto pericolante, anche se l'ANAS al momento smentisce. La denuncia è partita da voi, ci spiega un po' meglio? Sì, nel tratto di autostrada siciliana, che lo svincolo è chiamato Ponte Cinque Archi perché c'è proprio l'esistenza di un ponte antico in archi in pietra, e abbiamo notato che a seguito di una frana su una strada statale che siamo andati a monitorare perché ha praticamente messo in disuso la possibilità di raggiungere una piccola comunità che è quella di Villa Rosa, abbiamo notato che il fiume sta andando invece a creare un serio rischio di crollo sul costone che praticamente sorregge l'autostrada 19 proprio all'altezza dei Ponte Cinque Archi. Noi abbiamo preso le carte del Genio Civile, che già da un anno sollecita sia l'ANAS che anche l'assessorato regionale siciliano dell'infrastruttura di intervenire proprio perché ci sono questi rischi. Stamattina, a seguito della ennesima smentita di pericolo... Senta, io ho visto delle foto su internet, così lo spieghiamo un po' anche agli ascoltatori, sì. Cancelleri, perché non ho capito bene se sono quelle, perché poi, come sa, la verifica delle foto su internet è sempre una cosa un po' complicata e che richiede tempo. Da quel che ho visto io c'è sostanzialmente una specie di un pilone, no? In mezzo ad un fiume, e quasi si vede la base di questo pilone. No? Quella è una parte, ma è la parte che diciamo in qualche modo preoccupa meno. Il problema è che, proseguendo proprio da lì, una decina di metri più avanti, un ammasso di pietrame ha creato sostanzialmente un'isola al centro dell'alveo del fiume. L'acqua, per scorrere, ha trovato la strada a destra e a sinistra di questa isola, diciamo, artificiale, andando ad erodere quelli che erano i fianchi dell'alveo del fiume stesso. Da una parte ha creato la frana che ha fatto cadere giù la strada statale 121, dall'altro invece sta andando a minare il muro di cinta che contiene il terrapieno sul quale è appoggiato il ponte della 19. ANAS sostiene che non ci siano pericoli, in realtà non è vero, perché il Genio Civile con una comunicazione del 14 aprile dice che c'è il rischio di crollo. Ora, è vero che la Sicilia è la terra dove tutto può accadere, però andare a scrivere con una dichiarazione di ANAS che sostanzialmente in Sicilia è più facile che crolli un ponte e non che caschi un governo, mi sembra veramente una cosa assurda. Ora, noi chiediamo l'intervento immediato. Qualora non ci dovesse essere l'intervento immediato da parte di ANAS, noi procederemo a richieste un attimino più opportune, che sono quelle di dimissioni del direttore regionale di ANAS, l'ingegnere Tonti, e anche, perché no, faremo una denuncia per danno erariale, perché nel momento in cui si va a intervenire adesso il conto economico da pagare è chiaramente molto piccolo, perché si tratta semplicemente di movimento terra. Nel momento in cui invece andrà a succedere un danno serio, si comincerà a parlare di milioni di euro di emergenza e quindi di appalti dati con sommorgenza e tutto quanto, e capite bene che è una cosa chiaramente inaccettabile. La frana, il crollo del ponte, quello di cui parlava in apertura dell'intervento, che adesso ha praticamente bloccato la mobilità siciliana, che è quello di Tremontelli, è figlio di una relazione del 2005, cioè di 10 anni fa, dove i tecnici del reparto geologico della regione siciliana dicevano che era questa frana interessava già i piloni dell'autostrada e che si doveva intervenire immediatamente. Sono passati 10 anni e noi questa cosa, devo dire la verità, Cancelleri, noi questa cosa l'abbiamo raccontata ampiamente, perché è una di quelle cose che abbiamo trovato incredibili, o meglio, non incredibili perché siamo nati ieri e non viviamo in Italia, ma oggettivamente una di quelle cose che fa arrabbiare molto. Mi dice solo una cosa: avete sollecitato risposte anche dall'assessorato, dalla presidenza della regione? Avete avuto una qualche reazione? Al momento non abbiamo avuto risposte, perché la nota l'abbiamo inviata stamattina. Vogliamo capire quali sono gli interventi urgenti che loro intendono fare. Però abbiamo anche fatto un esposto per conoscenza alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, li abbiamo informati sui fatti, gli abbiamo detto: guardate che ci sono delle relazioni del Genio Civile e guardate che c'è questo rischio. Voi poi prendete le dovute, insomma, fate quello che intendete fare. Però noi, come si suol dire, stiamo mettendo il ferro dietro la porta, perché è assurdo che in una regione che cerca di affrancarsi come una regione, diciamo, moderna e civile, poi alla fine veramente succedono delle cose dettate semplicemente dall'incuria e dalla impossibilità di intervenire in tempi certi. Cioè, oggi questo è un dramma che dobbiamo chiaramente affrontare. Cancelleri, abbiamo 30 secondi, giusto, perché poi non è che io le vicende politiche siciliane le segua così attentamente, ci chiede un ascoltatore, ma voi non siete al governo in Sicilia, in realtà non ci siete più con Crocetta voi, no? La maggioranza è cambiata qualche tempo fa e non mi ricordo più, abbia pazienza. No, noi non siamo mai stati in maggioranza con Crocetta. Crocetta è sostenuto dal Partito Democratico e dall'UDC e continua a rappresentare uno dei più grandi drammi politici della regione siciliana, perché chiaramente considerate che oggi siamo riuniti in commissione bilancio per affrontare quello che è un bilancio di lacrime e sangue per tutti i cittadini siciliani, e non si riesce però ad intervenire mai su quelli che sono i veri costi. Da un lato chiediamo tasse ai cittadini, dall'altro lato invece aumentiamo gli stipendi per i dirigenti delle società partecipate. Non la volevo portare su questo, non perché non ne voglia parlare, ma semplicemente perché il tempo sta finendo e come dire, era una domanda molto precisa. Comunque la ringrazio, grazie a Cancelleri su questa vicenda della Palermo Catania. Anche qua in qualche modo ci torneremo, così come torneremo su altre strade in situazioni difficili di questo paese. Ci fermiamo, c'è il traffico.